Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Benvenuti e benvenute a Mebius, ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti, bentrovati. Vedo qui un bel libricino blu con dei paracadutini rossi. Si tratta di Erba Volant, imparare l'innovazione dalle piante, un libro pieno di aneddoti. E poi le grandi macchine di manifattura, la meccatronica, ha a che fare con l'oreficeria? Vi sembrerà strano, aspettate, è così. Proprio così, e poi vi parliamo di un progetto europeo che rende i cittadini dei piccoli scienziati e allo stesso tempo addestra un cane ad annusare coleotteri. Pensa tu, via. Partiamo. Vedo sulla pagina di apertura di questo libro dei paracadutini piccoli, sono 5-6. Sulla destra, e sulla sinistra cosa vedi? Vedo, certo, è vero, hai ragione. Dei pollini che sembrano venire giù pure loro lentamente, come i paracadute. Sembra proprio che si siano ispirati a loro. E chiediamolo all'autore. Intanto diamo il benvenuto a Renato Bruni, buonasera. Buonasera a voi. Benvenuto Bruni. Dunque, lei è docente di botanica presso l'Università di Parma ed è autore di questo bel libro, appunto, che abbiamo introdotto in questo modo, adesso le faremo spiegare, che si chiama Erba Volant, imparare l'innovazione dalle piante, codice edizioni. Renato Bruni è qua con noi e noi, va bene, abbiamo iniziato così, raccontando la quarta di copertina, in cui ci sono dei paracaduti e accanto dei pollini. Nasce tutto da qui. Nasce dal fatto che l'uomo da diverse centinaia di anni si ispira alla natura per risolvere alcuni dei suoi problemi, quindi va un po' a copiare, a prendere ispirazione da quelli che sono gli adattamenti dell'evoluzione in campo naturale per cercare di risolvere i suoi problemi del contemporaneo. In quei paracadutini che ci sono sulla copertina si ispirano a uno degli esempi, diciamo, classici di questa disciplina, che si chiama biomimetica, uno dei pionieri dell'ingegneria aerospaziale inglese, che si chiamava Cowley, si ispirò ai pappi ai semi di una pianta di prato, una normalissima pianta di prato, per progettare dei paracadute che non si ribaltassero quando il pilota, diciamo, li utilizzava. I pappi praticamente sono i semini dei soffioni, così, insomma, per intenderci. Esatto, sì, esatto. È una pianta, si chiama Tragopogon pratensis, quella a cui si è respirato lui, che funziona esattamente come il tarassaco, come i soffioni che troviamo nei nostri prati. E lui, ispirandosi alla distribuzione dei pesi su questi, diciamo, semi che vengono diffusi dal vento, ha appunto posto le basi per dei paracadute più stabili e più sicuri. Ecco, lei l'ha detto. È uno degli esempi di biomimetica classica. Poi, ecco, l'ha appena detto, biomimetica. Vogliamo dare una definizione, far capire che cos'è? Insomma, in parte adesso con questo esempio l'abbiamo un po' capita. È una disciplina che in realtà unisce diverse aree del sapere scientifico, non solo, che appunto punta a trarre ispirazione, a imitare, non a fare delle copie formali, ma a usare quello che si trova in natura come ispirazione da applicare in diversi ambiti tecnologici, dall'ambito farmaceutico all'ambito ingegneristico, a quello architettonico, a quello della produzione di energie rinnovabili, un po' andando a guardare, che so, le superfici delle foglie, parti che ora riusciamo a vedere anche al microscopio o addirittura con microscopi che danno ingrandimenti a livello nanoscopico, e sfruttando le tecnologie moderne non solo di osservazione ma anche di riproduzione, noi abbiamo molte più possibilità dell'ingegner Cowley che citavamo prima di riprodurre soluzioni che la natura ha già messo a punto. Ci faccia qualche esempio? Ecco, sì, via. Perché c'è da dire che il libro è ricco di esempi e di aneddoti. Due esempi, diciamo, che hanno già un impiego commerciale, quindi che non sono sospesi tra le idee futuribili, ma che sono già oggetti presenti in commercio. C'è una vernice per esterni e anche per interni che si chiama Lotusan, che si ispira alla superficie del loto e in realtà anche di altre piante, anche del normalissimo cavolo, sulle quali le gocce d'acqua non si depositano ma rimangono sempre di forma sferica e rotolano via sulla superficie dell'acqua. Sono idrorepellenti. È stata prodotta una vernice negli Stati Uniti che è già in commercio da diversi anni, che ad esempio può essere utilizzata su monumenti in maniera tale che la semplice pioggia lavi via automaticamente lo smog che vi si deposita e quindi aumentando la protezione che questi monumenti hanno. Un altro esempio è ancora più vicino alla biochimica probabilmente e riguarda delle membrane per il filtraggio dell'acqua che sono messe in commercio da un'azienda danese e queste membrane si basano sulle stesse proteine che sulle membrane cellulari delle piante e degli animali filtrano l'acqua. Si chiamano acquaporine e attualmente abbiamo la tecnologia per produrre delle membrane di materiale plastico in cui vengono inserite le stesse identiche proteine delle membrane cellulari e le possiamo utilizzare per filtrare e depurare l'acqua. Un astronauta danese che ha sostituito la Cristoforetti sulla stazione spaziale Le ha usate per filtrare le acque reflue della stazione spaziale con successo, hanno il vantaggio di consumare il 30% in meno di energia, cioè le pompe che devono far funzionare questi sistemi consumano meno energia perché questo filtraggio è molto selettivo e molto più efficiente delle strutture che l'uomo ha prodotto facendo da sé. Cioè, perché c'è da dire che appunto la natura ci ha messo milioni di anni, quindi diciamo che l'efficienza si è sperimentata e quindi prendendo spunto si va direttamente al meccanismo più efficiente. Infatti si sta provando a riprodurre la fotosintesi, che è una serie di meccanismi chimici, fisici più perfetti ed efficienti, ed ancora la ricerca non ci è arrivata a riprodurla nello stesso modo. Sì, in realtà nel caso della fotosintesi noi stiamo copiando un principio, non stiamo proprio copiando il meccanismo completo, perché sarebbe troppo complicato, l'intervento di molti enzimi e sarebbe troppo costoso e troppo difficile da riprodurre, però stiamo mettendo a punto sistemi che si chiamano di fotocatalisi che partono dagli stessi reagenti e arrivano ad avere prodotti diversi con i quali si usa la luce per produrre ad esempio idrogeno da utilizzare poi come fonte di energia. Ovviamente questo è un settore su cui si sta lavorando e investendo molto. Negli Stati Uniti è stato fondato 2-3 anni fa un centro espressamente dedicato alla riproduzione della, chiamiamola comunque fotosintesi artificiale, anche se non è così, ed è una cosa su cui anche molti ricercatori italiani stanno lavorando. Lei sa tutte queste cose perché è anche un auditore privilegiato, perché in effetti le piante le parlano, cioè lei entra in un bosco e dialoga. Abbiamo capito questo. Sì, il protagonista del libro ha questa dote che è un po' preso in prestito a Conrad Lorenz, parla con le piante ed è in grado di sapere che cosa loro... informazioni di prima mano. Esatto, informazioni di prima mano. È così un po' uno stratagemma narrativo che ho cercato di inserire nel libro anche per far presente al lettore o a chi si avvicina a questo tipo di argomenti che le piante hanno dei meccanismi biologici che sono molto diversi da quelli degli animali, quindi da un lato può essere molto utile andare a guardare come loro hanno risolto i loro problemi pur avendo esigenze che in molti casi sono diverse dalle nostre, e dall'altro anche per stabilire un contatto un po' più diretto con l'ambiente naturale. Il tema della biomimetica è spesso molto vicino alla tecnologia, è molto affine a una ricerca che va più appunto verso la tecnologia che non verso la naturalità, però ha una base di partenza che si basa sulla biofilia, si basa su una certa empatia con gli ambienti naturali. Io sto parlando con voi e passeggio in un boschetto in questo momento. Che fortuna! E quindi è grazie a questo passeggio nel boschetto che molti inventori e molte persone che si occupano di biomimetica hanno magari notato le ispirazioni particolari, hanno avuto ispirazione. Diciamo che il libro è scritto proprio anche molto bene, quindi molto facilmente leggibile. Sì, poi ci eravamo segnati un sacco di cose, come gli agrumi influenzano i paraurti, come l'edere influenza la chirurgia, però purtroppo non c'è tempo. Dobbiamo andare al traffico, però il libro è ricchissimo di complimenti, un libro strano fra l'altro. Ricordatevi Erba Volant, imparare l'innovazione dalle piante, codice editore. Grazie Renato Bruni. Grazie a voi, buonasera. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Qualche settimana fa la radio era ospite di EMO, la fiera mondiale delle moderne macchine per la manifattura. In quell'occasione, girando per gli stand, abbiamo incontrato una cosa che ci ha colpito molto, cioè delle macchine per la gioielleria. E allora abbiamo deciso di invitare l'ospite in studio. Sentiamo com'è andata. Mia cara Chiara, vorrei regalarti un braccialetto fatto di titanio, fragole e osso di seppia. Devo avere un po' che meraviglia, esagerato, no? Vedo che il nostro ospite Antonio Venezia sta ridendo, però potrebbe forse essere uno dei nuovi materiali da polverizzare. Sì, fragole e titanio, una roba unica. Salutiamolo intanto, esatto. Benvenuto Antonio Venezia, è direttore commerciale di Sisma S.p.A. ed è un'azienda che nasce come azienda che si occupa di tecnologia laser, ma questa è un po' una definizione riduttiva, come adesso andremo a raccontare. Ho esagerato? No, no, assolutamente, anzi, avete centrato il tema. Il tema è quello, magari fragole no oggi, però forse qualcosa di metallo sicuramente. Sì, un po' più di solido va considerato. Però sì, siamo partiti da un gioiello. Yes. Perché noi siamo andati nello stand di Sisma e abbiamo visto le produzioni. E non scherziamo quando diciamo un gioiello, perché abbiamo visto appunto dei bracciali d'oro realizzati con, ci spieghi lei con che cosa? Assolutamente, con questa nuova sistema di produzione, questo nuovo concetto e se vogliamo questa nuova cultura che si sta facendo in ambito di produzione industriale, che è appunto produzione additiva o produzione di fusione polvere attraverso laser sul letto di polvere appunto. Allora fermiamoci un attimo, additiva rimanda alle stampanti 3D, noi ne abbiamo già parlato altre Perfetto. Volte, dovrebbero sapere, insomma strato, yes, su strato costruisco deposito l'oggetto. Di materiale, noi siamo abituati però a pensarlo plastico, cioè plastico, la fusione di strati di plastica, invece qui viene materiali, diciamo, l'innovazione. Il concetto è che partiamo comunque da una polvere metallica molto molto fine, quindi parliamo di micron. Questa polvere viene depositata in strati di alcuni centesimi e attraverso un fascio laser viene fusa in maniera selettiva, cioè solamente dove il laser agisce io ho la creazione di un agglomerato di polvere. Quindi non solo stampante 3D, ma anche un'altra tecnologia, quella laser, che mi serve per mettere insieme la materia. Ecco, però io prima dicevo fragole e ossi di seppia. Perché l'ho detto in modo estremo? Perché effettivamente stiamo andando in una direzione in cui i gioielli potranno essere fatti di materiali più diversi. Lo scenario è indescrivibile ad oggi, le potenzialità enormi, perché offrono a noi come produttore della tecnologia e all'utilizzatore, quindi al produttore dei gioielli, una più ampia possibilità di scelta, la possibilità di combinare più materiali, potremmo dire titanio più oro, piuttosto che alluminio più acciaio, chi lo sa quali altri potranno essere integrati, che saranno poi a seguire quella che potrebbe essere una nuova moda che nasce, che nasce dal mercato. E poi noi parliamo di oreficeria, però insomma le applicazioni possono essere anche ampie, parliamo di oreficeria perché appunto sono macchine di altissima precisione, in grado proprio, infatti qua questo è il punto, di realizzare anche gioielli unici e non semplici, cioè vale a dire con un reticolato particolare, a seconda di quello che è insomma il gusto del designer. Cioè, cosa che il gioielliere non faceva prima. Oggi avete centrato uno dei temi, perché questa tecnologia? Per quale motivo si sta parlando tanto di produzione additiva anche di polveri metalliche? E ci sono vari vantaggi. Primo, la possibilità di fare pezzi non fattibili o fattibili in modo molto più complesso, più costoso e più elaborato con tecnologie tradizionali. Stessi pezzi, stessa qualità ma più leggeri. Per quale motivo? Quindi costano un po' meno. Costo un po' più ridotto. E poi andiamo a un aspetto che forse per il gioiello, ma forse trasversale anche in altri ambiti, che è la customizzazione estrema. Come cioè, ho detto si può prima, personalizzare io posso fragole, ossa di seppia, cioè ti faccio una cosa solo per te esclusivamente. Quindi c'è un tema di esclusività a vari livelli che è estrema, per cui io posso avere un oggetto unico dove l'utente potrà chiedere una riproduzione di un oggetto che per lui è importante, ma solo per lui, e regalarlo alla persona cara, se parliamo di un gioiello. Unico nella fattura, unico nel materiale, nel disegno. Ecco, ma questa cosa qui, come sempre, quando arrivano nuove tecnologie, c'è il problema che ci sono le tradizionali che un po' si ribellano, ma in fondo questa roba qui non dovrebbe essere il sogno del gioielliere? Ci sono due aspetti, uno è quello del materiale e uno è quello del design. Per cui se andiamo in termini di materiali, le opportunità sono da esplorare. Dovrebbe piacere. Sì, per cui nel momento in cui cambia anche il modo di creare il gioiello, per cui se prima era artigianato puro, domani può essere un artigianato però digitale. Però la creatività quella aumenta. È la base. Può essere molto più forte. Sì, ho un tool potenzialmente molto più ampio, però devo esplorarlo, devo avere anche il coraggio di esplorarlo. Capace, andando appunto al loro stand, noi abbiamo visto, oltre appunto a questi bracciali meravigliosi, abbiamo visto delle sagome di dente. Sì. O meglio, non proprio delle sagome, diciamo il cuore di un dente, la riproduzione di un dente. Un impianto perché appunto questo tipo di tecnologia viene utilizzata anche in quest'ambito. Yes, partendo dal presupposto tecnologico, le applicazioni sono molto trasversali. Abbiamo accennato il mondo della gioielleria o del gioiello fatto per una singola persona. Un'altra applicazione molto rilevante è nell'ambito dentale, per cui io vado a sostituire la produzione con tecnologia tradizionale, quindi tipicamente con fresatura, attraverso l'utilizzo di laser metal fusion, così come la chiamiamo noi, per cui partendo da un file 3D derivato dalla scansione di una bocca o di un impianto o di una protesi, vado a realizzarla con questa tecnologia. E anche lì, avendo a disposizione materiali che magari sono molto leggeri e tremendamente resistenti, no? Allora, qui dobbiamo declinarla nel momento in cui abbiamo un corpo che entra nel corpo umano, quindi un oggetto che entra nel corpo umano, c'è un aspetto legato alle certificazioni e a norme che è altrettanto rilevante. C'è da dire che da un punto di vista di materiali, la possibilità oggi si utilizza in gran parte cromo cobalto o titanio, per protesi in genere, e quindi che rispondano alle caratteristiche che nell'ambito dentale o medicale sono indispensabili. Dopodiché la possibilità di creare lo stesso oggetto più leggero, con una finitura migliore o che abbia delle prerogative perché attecchisca meglio, è altrettanto importante, perché comunque può essere sviluppato, quindi posso avere una protesi più leggera, perché no? Certo. Posso risparmiare materiale nel costruirla, posso avere un oggetto effettivamente customizzato. Ha esattamente la forma del dente, ma possiamo estenderla in ambiti di protesi, piuttosto che ginocchio, gomito, piuttosto che interventi per incidenti anche seri. Sì. Io faccio la scansione dell'oggetto che mi serve. Sì. E lo riproduco per quel paziente. Certo. Qui dobbiamo segnalare ai nostri ascoltatori che non lo sapessero che riusciamo oggi, avendo una radiografia di un ginocchio, si riesce a ricostruire in 3D con estrema precisione com'era esattamente tutto quel pezzo, no? Esattamente. A partire da, per esempio, una radiografia. Certo. E questo processo è già fattibile. Lo scenario che si apre oggi è anche in termini di calcoli fisici e matematici, cioè che tensioni quel pezzo, a che tensioni, a che forze quel componente, quella protesi è sottoposta, e quindi si aprono scenari dal momento che lo faccio per quello specifico utente, la sua struttura ossea, la sua struttura corporea, il suo peso. Ho bisogno di un materiale più resistente o meno. Sono tutte variabili che aprono scenari molto molto affascinanti, se vogliamo. Per chi fosse curioso, vi troviamo su internet Sisma. www.sisma.com. Grazie Venezia, arrivederci. Buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro. Lo abbiamo detto prima nei titoli, un progetto europeo molto molto particolare che si occupa di citizen science, cosiddetta, la scienza dei cittadini, oppure cittadini che diventano che fanno scienziati. Scienza. E poi un cane che si chiama Teseo, e adesso lo conosceremo, che annusa coleotteri. Queste due cose stanno insieme in un progetto che si chiama LIFE, è un progetto europeo, quindi LIFE MIP. Con due P. E a raccontarcelo qui con noi c'è Alessandro Campanaro. Buonasera, benvenuto. Buonasera. È ricercatore presso il Centro Nazionale di Biodiversità Forestale di Verona, che è uno degli enti che partecipano a questo grande progetto. Gli enti sono tanti, non possiamo elencarli tutti. Andiamo subito diretti al cuore del progetto. Qual è lo scopo? Allora, il progetto è un progetto LIFE, come avete detto, quindi è cofinanziato dalla Commissione Europea e si occupa del monitoraggio delle foreste, quindi delle foreste italiane, attraverso alcuni insetti, alcuni coleotteri che ci indicano il buono stato di salute di queste foreste. Diciamo che la novità di questo progetto, l'avete anticipato, è questo cane. Noi abbiamo addestrato Teseo, un golden retriever, che ci aiuta proprio nello scovare una di queste specie, lo Smoderma eremita, una delle specie più rare di questo progetto. Aspetti, come si chiama il nome scientifico? Osmoderma eremita. Osmoderma eremita. Esatto. Quanto è grande? È grosso 5-6 centimetri, quindi non è molto grande, diciamo, però rispetto ai nostri insetti è uno dei più grandi. Vive nelle cavità degli alberi, eremita, perché passa gran parte del suo ciclo vitale negli alberi cavi. Diciamo, gli alberi sono cavi quando sono vecchi, quindi quando abbiamo una foresta in buone condizioni, una foresta che non è stata, diciamo, gestita eccessivamente dall'uomo, abbiamo alberi molto antichi con cavità e questo insetto vive al suo interno. E come mai Teseo è stato addestrato per scovare questo coleottero? Perché è importante questo coleottero? Ma dunque, è importante, diciamo, per un motivo biologico, proprio perché è una specie rara che, essendo scomparse gran parte delle foreste naturali in Europa, questo insetto, diciamo, è prossimo all'estinzione, quindi è protetto dalla direttiva Habitat, che è una direttiva che vale in tutti i paesi della comunità europea, che protegge una serie di specie, fra cui questa. E la difficoltà per noi ricercatori di scovare questa specie è proprio andarla a trovare all'interno di queste cavità. E invece per Teseo non è un problema, perché come fa? Allora, Teseo è stato addestrato, è un cane molecolare, si chiamano così quei cani che riescono a sentire sostanze anche, non sono nascoste nelle valigie. Quelli delle polizie, sì. Esattamente. E lo abbiamo addestrato presentandogli l'insetto vivo, facendoglielo annusare. Teseo adesso ha 2 anni e mezzo, è pronto per andare nei boschi e autonomamente trovare questi insetti. Sì. Quindi li annusa, sente l'odore. Li annusa, sente l'odore. No, abbiamo detto che gli aspetti essenziali sono due. Ok, Teseo l'abbiamo descritto e invece voi per trovare, insomma, questi coleotteri avete anche bisogno del nostro aiuto. Sì, sicuramente. Infatti questa è l'altra, diciamo, particolarità di questo progetto, che chiediamo ai cittadini di aiutarci nel riportare, nel segnalarci la presenza di questa specie, lo Smoderma, ma di altre specie anche, nel territorio nazionale. E quindi fa parte di questi progetti di citizen science, in cui i cittadini vengono direttamente coinvolti nella ricerca scientifica. Quindi uno che va in giro in un bosco si porta dietro una tabella, una scheda? Delle foto, qualcosa. Allora, ci abbiamo pensato molto e alla fine la soluzione migliore è stata quella di produrre un'applicazione per smartphone, si chiama MIP, con 2 P. M-I-P-P. E attraverso questa applicazione, se un escursionista, una persona è in un bosco e pensa di aver visto una delle nostre specie target, sono 9 le specie che noi ricerchiamo, scatta una foto, ce la invia in automatico con le coordinate georeferenziate e in questo modo noi possiamo visualizzarla e confermarla o meno come specie esatta. Ecco, è molto importante che la gente partecipi, perché è molto importante sapere, attraverso la presenza di questi coleotteri, in quale stato è il bosco in cui stiamo camminando, insomma, in cui ci addentriamo. Esattamente, c'è un forte fine didattico, divulgativo in tutto ciò. I cittadini, essendo in prima persona impegnati, riescono intanto a spostarsi dalle città e andare in ambienti naturali e poi a capire l'importanza di questi insetti, perché vanno a indicare qualcosa di più generale, lo stato di un ecosistema. Sì, e poi essendo tanti i cittadini fanno proprio loro fanno una massa, cosa utile, certo, perché in altro l'osservazione modo l'osservazione capillare. Esattamente, noi riusciremo con difficoltà a coprire tutta l'Italia. Bene, allora ripetiamo le possibilità per entrare in contatto col progetto. Si chiama Progetto MIP, M-I-P-P. Grazie Campanaro, davvero, e buon lavoro, buona ricerca. Grazie a voi, buonasera. Ma tu hai le foto di tutti i coleotteri? Ma certo, ho le foto dei coleotteri e ho le foto di Teseo, quindi per chi volesse vederlo all'opera, sul nostro blog su radio24.it trova tutto e quindi anche le possibilità di mettersi in contatto con i ragazzi del progetto Life MIP. Buona settimana a tutti e a tutte, ciao!